Europa 24. Un saluto anche da Gigi Donelli. Dunque, domenica il voto, avete sentito gli appelli citati appunto e riportati da Simone Spezia poco fa nel GR. Per quanto riguarda Europa 24, giorno, ci risentiamo ovviamente a urne chiuse, anzi a urne riaperte lunedì per i risultati. Intanto, visto che come sapete questo voto non solo è un voto enorme, quindi con una popolazione di 500 milioni di persone, ma è anche un voto scadenzato lungo la settimana, sono partiti olandesi e britannici. Proprio dall'Olanda è arrivata una prima sorpresa. Infatti i risultati ufficiosi degli exit poll registrano un crollo del più noto schieramento anti-euro. Sentiamo. L'Olanda rovina anche quest'anno l'embargo elettorale sui risultati delle elezioni europee, ma regala a Bruxelles un insperato sorriso. Secondo gli exit poll resi noti ieri sera dai media dei Paesi Bassi, a vincere la tornata elettorale sarebbero stati i partiti filoeuropei dei liberaldemocratici e dei cristianodemocratici, con una percentuale di poco superiore al 15%. Tiene le posizioni il partito liberale del premier Rutte, intorno al 12,1%, mentre la vera sorpresa è il calo del partito della libertà di Geert Wilders, anti-euro e anti-immigrazione, che perderebbe addirittura 2 dei 5 seggi che deteneva a Strasburgo con un deludente 12,2%, un crollo di quasi 5 punti rispetto alle precedenti europee. L'annunciata marcia trionfale degli euroscettici verso Strasburgo parte dunque con un inatteso KO che demolisce una delle tre figure più rappresentative della destra anti-euro, il biondo platinato Wilders. Bassa l'affluenza alle urne, sempre secondo l'exit poll, sebbene in leggerissimo miglioramento rispetto a 5 anni fa, a votare il 37%. Ieri si è votato anche in Gran Bretagna, possibile terra di conquista di un altro degli spauracchi di Bruxelles, l'euroscettico Nigel Farage, leader dello UK Independence Party. Oggi andranno ai seggi gli elettori di Irlanda e Repubblica Ceca, mentre il grosso dei cittadini europei, italiani compresi, voterà tra sabato e domenica. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di posizioni anti-euro, questa mattina ospite di Giovanni Minoli Mix 24, l'ex ministro dell'economia Giulio Tremonti ha parlato di unione bancaria, ha detto i soldi li prenderanno dai risparmi dei cittadini, come è accaduto a Cipro. Sentiamo un passaggio. Ma un euro, diciamo, che si è costruito su un'Europa 27 senza guerre, diventando un mercato di 500 milioni di persone alfabetizzate, questo è un valore da conservare o no? Ma guardi, intanto quella delle guerre è abbastanza una balla, anzi se c'è un rischio di guerre lo sta causando, secondo un'antica profezia americana, proprio l'euro. Ma le pare che c'era il rischio di guerra in Germania quando la Germania era divisa in due e aveva i carri armati russi alle porte di Berlino. Beh, però insomma la storia delle guerre in Europa è una storia drammatica. Ma infatti c'è il rischio che torniamo se questa gente continua a gestire l'euro in questo modo. Questa dunque la posizione di Tremonti, e prima che cali, diciamo, il silenzio preelettorale, vi ricordo anche che naturalmente la varietà di queste elezioni portano anche dei nomi molto diversi, insomma molto particolari. In Finlandia c'è il partito dei veri finlandesi, in Lettonia la coalizione dell'armonia dei verdi e contadini, in Danimarca il partito è quello del popolo danese, così come in Repubblica Ceca, che abbiamo appena citata, tra i partiti c'è Sì 2011, peraltro il partito nuovo del magnate Andrei Babis. Ecco, e chiudo diciamo questo spazio sulle elezioni ricordandovi i nostri speciali, quindi domenica sera, lunedì mattina vi racconteremo evidentemente in diretta ciò che accade sul piano europeo, ciò che accade sul piano tutto nazionale interno. L'Italia è uno dei diversi paesi europei che naturalmente ha un lato molto interno. Ma adesso parliamo invece ancora di questioni legate a Bruxelles e all'Unione, inadempienze dell'Italia nei confronti d'Europa e una corsa contro il tempo per il nodo delle carceri. Mancano 5 giorni alla scadenza del termine imposto dalla Corte Europea dei Diritti Umani all'Italia per risolvere la questione del sovraffollamento carcerario. Ad oggi la Corte dei Diritti Umani ha ricevuto 6.829 ricorsi contro questo problema nel nostro paese. I giudici di Strasburgo hanno stabilito che il governo ha tempo fino al 27 maggio come termine ultimo per l'introduzione di misure che rimedino alle violazioni subite dai detenuti a causa del sovraffollamento. Intanto il ministro della Giustizia Andrea Orlando vola per la seconda volta in pochi mesi a Strasburgo per presentare ai vertici del Consiglio Consiglio d'Europa e della Corte quanto sinora fatto dal governo. Dopo l'incontro, il segretario generale del Consiglio d'Europa, Gabriella Battaini Dragoni, ha espresso soddisfazione e ha affermato che ora spetterà al Comitato dei Ministri vagliare le misure nel corso della prossima riunione nei primi giorni di giugno. E potrebbe togliere la forte riserva nei confronti dell'Italia, mantenendo il monitoraggio. Se l'Italia non dovesse riuscire a introdurre un sistema per cui i detenuti possano essere risarciti in vario modo per le violazioni subite a causa del sovraffollamento, Strasburgo comincerà a emettere sentenze, come la Torreggiani, in cui condannò l'Italia a pagare quasi 100.000 euro a 7 detenuti. E se la Corte non avrà uno strumento per dichiarare inammissibili i ricorsi, la cifra che applicherà e che l'Italia pagherà sarà molto salata, circa 20 euro al giorno a detenuto. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per Europa 24 è tutto, la linea va a Carlo Genta. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.